Stato di sublime apparenza, appariscenza della droga facenza, solo di te ho astinenza, sola nella stanza vibra atomica, la mia esplosione di confusione, mentre avviene la ripetizione, fisica presenza da un altro pianeta, silicone, vita silicone. Vibra atomica, l'atomica vibra nel polso, una spira delira, la mia mente gira al contrario, mentre il mondo contromano, mentre il mondo musulmano mia preghiera no, corano cristiano con un rosario a pezzi. Torri gemelle cadute occidente, chiama false flag presidente. Stato di sublime apparenza, appariscenza della droga facenza, solo di te ho astinenza, sola nella stanza vibra atomica, la mia esplosione di confusione, mentre alieni parlano a ripetizione, fisica presenza, vita, silicone.